La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci qua, la rosa purpurea è tornata con tutto il cinema che c'è da vedere in sala e non solo. Un saluto da Franco D'Assisi, puntata con tantissime interviste, tanti film, tantissime interviste da farvi ascoltare, tanti protagonisti di questa settimana al cinema che saranno qui con noi alla rosa purpurea. Fra poco Alessandro Gassman, Anna Foglietta per il film Il Premio, più tardi toccherà Davide Ferrario per 100 anni, subito toccherà Soa Badi, che è la regista di Due sotto il burqa, il film con cui vogliamo cominciare questo ricco fine settimana cinematografico. Ascoltiamo la clip. Io e lei la ci amiamo tantissimo. A domani. Posso salire? Ma c'è un problema. Aspetta! Possiamo parlare? Lo prendo per un no. Suo fratello non la fa uscire di casa. Ridammi il telefono. Sai che nelle Sim c'è la gelatina di maiale? Buon appetito. Non so cosa fare. Storia piuttosto divertente, devo dire, come sentiremo fra poco anche dalla voce della regista, una possibilità di affrontare un tema così spinoso come quello della radicalizzazione dell'islamismo e poi in definitiva sullo sfondo anche del terrorismo, davvero con una risata. La storia di Armand e Leila, che stanno in Francia, nella Francia contemporanea, pianificano una vita insieme, ma a un certo punto nella vita di Leila torna Mahmoud, il fratello che era andato nello Yemen a radicalizzarsi, torna ed è una persona totalmente diversa e pretende che la stessa Leila sia una persona totalmente diversa, deve restare in casa, non deve vedere uomini, non deve uscire, deve mettere il burka. E allora come fare a rivedere il fidanzato Armand? Beh, la genialata se la inventa Armand, che si mette lui il niqab e si spaccia per donna, una donna di nome Sherazade, va a fare visita alla sua ragazza sotto mentite spoglie, riuscendo così a eludere la stretta sorveglianza, la stretta marcatura di Mahmoud. È un film nel quale poi tutti cambiano un pochino, però è interessante proprio l'approccio di questo, per questo film, di questo racconto, un approccio che tende a fare un po' ironia appunto su una faccenda che fra le più scottanti del nostro presente, come quella della radicalizzazione. Allora noi abbiamo chiesto a Soa Badi come ha fatto a far convivere insieme questi due mood così diversi, quello dell'impegno civile in qualche modo con i criteri della commedia. Vous savez, je suis d'origine iranienne. Sono originaria dell'Iran e ho vissuto di persona i primi anni della presa del potere da parte degli islamisti. Quindi ci sono molte situazioni di questo film che ho toccato con mano. Così mi sono detta, mi piacerebbe fare un film alla Billy Wilder, che abbia dentro anche delle proposte, che faccia ridere e faccia riflettere. Quindi ho mischiato Wilder, Cyrano de Bergerac, il teatro di Molière. Come diceva Oscar Wilde, l'umorismo rende sopportabile l'insopportabile. E così mi sono detta, coi tempi che corrono abbiamo bisogno di ridere, non di piangere. E se a partire dalla tristezza di questo mondo arriviamo a una risata, beh, affrontiamo meglio la vita. E allora questo è il parere di Soa Badi, raccolto tra l'altro alle giornate del cinema di Sorrento proprio la scorsa settimana, quando sono stati presentati tutti i listini dei prossimi 6 mesi di cinema in Italia. Boris Sollazzo, in collegamento con noi da Salerno. Boris, ciao! Ciao Franco. Da Salerno, perché è un giramondo e tutti i festival sono i suoi, un grande animatore di feste, ha il potere di farle fallire, citando Jep Gambardella. Boris. Ma io ho il potere di fare fallire i festival proprio, ecco. Questa è la mia. Allora stai lontano da noi per cortesia, non c'hai comunque fatto. Scherzi a parte, sto a Linea d'Ombra Film Festival, che è un festival molto, molto interessante, che ha 22 anni. Che insomma multidisciplinare, molto molto bello. Allora Boris, volevo chiederti 30 secondi lapidari di valutazione su Due sotto il burqa. Ma a me piace molto questo genere, diciamo, tragicomico sul raccontare il disagio di una società che è diventata estremamente ideologica e schiava della guerra di religione. Reagire con la commedia, mi ricordo per esempio Four Lions per quanto riguarda gli attentati, è forse il modo migliore. Come dicevo in passato, bisogna ridicolizzare il male, in questo senso il fanatismo va ridicolizzato, e usare lo stratagemma più utilizzato dalla commedia, anche un po' trash, cioè quella di stare sotto sentite spoglie e trovare qualcuno che si innamora di te nonostante tu non sia quello che dici di essere, è forse qualcosa da commedia dell'arte molto utilizzato ma anche molto molto divertente. La commedia viaggia su un ritmo e su binari estremamente efficaci, certo non parliamo di Billy Wilder, ma è una di quelle cose che secondo me fa bene alla testa e fa bene anche al cuore e al cervello per cercare di capire determinate cose, anche la stupidità di quanto possa essere stupido il fanatismo, quindi va benissimo così. Ecco, sentiamo ancora su Abadie, perché ne abbiamo chiesto anche come sia stato accolto il film nei paesi in cui è uscito, qual è stata la reazione del pubblico. Écoutez, tous les gens qui voient le film, ils l'adorent. Guarda, tutti quelli che hanno visto il film l'hanno amato. In tutte le città della Francia dove si sono svolte anteprime, la gente ha applaudito. Anche i giovani d'origine araba o maghrebina, di prima o seconda generazione, sono venuti ad abbracciarci e a dirci bravi, è un film utile, avete fatto bene a parlare di musulmani che non sono per forza integralisti, dei giovani che hanno un'altra spiritualità. C'è stata anche qualche polemica sul film, ma si sa, lo humor è una questione culturale. Ho mostrato anche in altri paesi questo film, come in Svizzera o Svezia, e l'hanno amato. Poi l'ho portato in Germania e avevo un po' di timori, ma anche in Germania è andato molto bene e ha vinto premi nei festival. E mi sono detta, forse davvero ho parlato di un tema universale. Un tema universale che ha molte tonalità, molte sfumature proprio riguardo al tema della religione. Se in Occidente si pensa spesso all'Islam come una sorta di monolite, chiaramente in questo film, anche con le sfumature dell'umorismo, si mostrano diverse facce di una modalità religiosa. C'è chi è radicalizzato, chi crede, chi non crede, oppure chi crede ma non crede nel radicalismo. Quanto è stato difficile portare tutte queste sfumature a un pubblico appunto che tende ad avere una visione monolitica dell'Islam? Penso che il pubblico conosca questa differenza. Forse non ne sa parlare, ma la conosce. Quando i giovani lo vedono, riconoscono questo o quel personaggio in qualcuno che gli è più vicino. Del resto c'è molta documentazione nel mio film. Tutti i caratteri sono presi dal mondo reale. È vero, ci sono dei personaggi che hanno delle contraddizioni. Ma chi di noi non ne ha? Il comunista di famiglia borghese, l'esiliato in Francia che si arrabatta facendo il tassista, la femminista che nonostante tutti i suoi discorsi di autonomia vuol trovare marito. Non siamo tutti eroi e non siamo tutti dei miserabili. Siamo sempre un miscuglio di contraddizioni. E hanno ragione quei giovani che mi hanno detto «questo film ti somiglia». Perché io sono la somma di tutte queste contraddizioni. Ecco, la meta del mio film era dire abbiate dei dubbi, anche su voi stessi. Può darsi che vi servano a raggiungere i vostri obiettivi. Su Abadie alla Rosa Purpurea per Due sotto il burka. Adesso viabilità, fra poco torniamo, sentiremo Anna Foglietta e Alessandro Gassman per il film Il Premio e parleremo di un film davvero particolare che si intitola L'insulto, fra poco. De Giro, il trading online a commissioni basse senza precedenti. Visita degiro.it. Vi presenta La Rosa Purpurea. Quel tubo non è in regola. Stava facendo il suo lavoro. Sei un cane! Che venga a chiedermi scusa. Siete davvero un popolo di parassiti! Yasser Salem reagisce alle parole che hanno offeso la sua identità e quella del suo popolo. Quando si oltrepassa il limite, ci si deve aspettare una reazione. La cosa è inevitabile. Direi umana. E allora, in qualche modo, con questa che è una clip dell'insulto, rimaniamo un po' anche nell'atmosfera e nelle tematiche che abbiamo trattato prima con Su Abadie per Due sotto il burka. Nel senso che anche qui c'è un conflitto... che però ci porta nel cuore del Libano, dove tutto nasce veramente da un piccolo fiocco di neve che diventa una valanga. Un insulto, avete sentito, tra due persone, uno Tony è un cristiano libanese, l'altro Yasser è un palestinese. Tony vuole semplicemente, una riparazione di un piccolo problema al suo balcone. Insomma, viene fuori da questo insulto, da questo sei un cane, viene fuori davvero un dramma che finisce in tribunale, che mobilita l'opinione pubblica, che mobilita il governo. È una, chiaramente una situazione che ha un valore simbolico, di una terra senza pace anche nella non comprensione dei diritti e della posizione di ciascuno. Boris, un film, questo L'insulto, che ha avuto successo in tutti i festival internazionali, è davvero un film che ti tiene lì, ti appassiona, partendo da una cosa così piccola, però diventa un legal thriller con implicazioni politiche importanti, davvero come non se ne vedevano da tempi, come ritmi e colpi di scena. Hai fatto benissimo a sottolineare questo aspetto, perché si è parlato talmente tanto del valore politico dell'insulto da dimenticarsi che è un film cinematograficamente davvero interessante e davvero ben riuscito, soprattutto sotto il punto di vista del linguaggio e dell'uso dei generi. Il linguaggio cinematografico è essenziale, molto semplice e allo stesso tempo però molto curato, in una fotografia che cerca sempre di illuminare e anche allo stesso tempo nascondere certi particolari per valorizzarne altri. In fase di scrittura, perché tra le altre cose, lo diciamo come curiosità, gli sceneggiatori sono marito ed ex moglie, appunto, che è il marito che è anche il regista, Ziad Dridi, e la moglie, a cui è capitato un incidente del genere, sono stati ispirati da questo incidente per scrivere il film, per capire come un incontro, scontro tra un palestinese e un cristiano maronita in Libano possa poi diventare un caso di Stato. E la cosa interessante è che lei, cristiana, ha scritto la parte dell'arabo e lui, filo palestinese, ha scritto la parte del cristiano, e questo fa capire molto di quanto sia onesto intellettualmente e questo l'insulto, quanto si cerchi di andare a fondo di un'umanità che voglia raccontare non la divisione politica ma il dolore di vivere in un paese lacerato. Inoltre, per noi, tra virgolette, occidentali, non medio orientali, questo ci aiuta anche a togliere l'ideologia da tutta una serie di stereotipi. Qui troviamo un arabo che odia un altro arabo. A un certo punto il palestinese, diciamo, colpito da questo processo per aver insultato un cristiano che a sua volta lo aveva insultato, ma appunto non sono pari, non sono in parità, dice: noi siamo i negri degli arabi, facendo capire che per i palestinesi la vita è dura non solo in Israele, non solo a causa degli israeliani, ma anche a causa di coloro che con cui condividono determinate battaglie. Cioè, allarga la nostra mente, e allarga la nostra mente, ed è il motivo per cui ha avuto tanto successo in tutti i festival, sono stati tantissimi premi per il pubblico, è perché ci dice anche un'altra cosa, che il mondo si è polarizzato, si è libanesizzato, si è palestinizzato, si è israelizzato. Quindi qui vediamo un cristiano maronita e un palestinese, ma potrebbe essere tranquillamente un terrorista arabo e un cittadino europeo, potrebbe essere appunto un afghano, un americano. Cioè, ci siamo resi conto che il mondo è diventato quello che nel Medio Oriente già vedevamo per esempio in Libano dal 1975 al 1990, quando c'è stata la guerra civile. E questo rende ancora più interessante e più universale questo film. E inoltre, cosa che non succede molto spesso ormai nel cinema, ci sono anche due o tre colpi di scena molto forti, molto importanti, che ti fanno proprio venire voglia di non voler fare spoiler, perché, come hai ricordato tu, al di là di tutto è anche un legal thriller come Dio comanda, e questo non è assolutamente male. E questo era quindi L'insulto, un film davvero che ci sentiamo di consigliare. Cercatelo nelle sale italiane, è un'uscita, diciamo, non massiccia, però di buona penetrazione, 78 sale in tutta Italia, insomma c'è sicuramente modo di trovarlo al cinema. Giochiamo insieme, perché c'è da ascoltare la prima traccia del film misterioso di oggi. La notte la signora Mullins usa i suoi poteri, di giorno rimane a letto, ma di notte se ne va in giro dove vuole, deve farlo per trovare da mangiare. E allora, di che film si tratta? La Rosa Purpurea, chiocciola radio24.it, atmosfere, diciamo, avete sentito, è abbastanza thriller horror, quindi orientatevi da quelle parti. Se avete indovinato, scriveteci il titolo, il vostro indirizzo e provate a vincere uno dei due Blu-ray che vi aspettano di questo film, di cui più tardi vi faremo ascoltare un'altra traccia. Eccoci finalmente arrivati alla partenza del nostro viaggio per Stoccolma e vi ricordo l'hashtag al Nobel con papà. Ah, scusate, è mia moglie, vi dispiace se rispondo un attimo? Sì, dimmi. Dove sei? Sono in macchina con papà e Lucrezia. Buona quella. Siamo in viva voce. Ciao bella, dove state andando? Stiamo andando a Stoccolma. È una medaglia. È una medaglia quella che assegna il premio Nobel, quella che anima un pochino questo road movie che si intitola Il Premio, è diretto da Alessandro Gassman con Gigi Proietti, lo stesso Alessandro Gassman, Anna Foglietta e Rocco Papaleo, principali protagonisti di una storia di famiglia, di un padre ingombrante, uno scrittore rinomato, famoso, anche abbastanza ricco, che vince il Nobel, deve andarlo a ritirare, ha paura di volare e allora decide di fare il viaggio in macchina, attraversando l'Europa da sud a nord, passando per diversi paesi con i due figli diversamente, non dico non graditi, ma insomma distanti tanto dal padre quanto fra di loro. Alessandro Gassman con una storia d'amore che è un po' sul crinale per il fallimento, che non ha mai voluto chiedere niente al padre ma che è rimasto un po' in una mediocrità che il padre non accetta molto. Dall'altra parte Anna Foglietta invece, blogger piuttosto saccente, che decide di documentare momento per momento questo viaggio. E poi Rocco Papaleo, il maggiordomo 2.0, l'uomo tuttofare, l'uomo di fiducia. Parte questo viaggio, si attraversano i paesi con anche momenti di grande divertimento fino, prima di arrivare in Svezia, ad approdare a un luogo mitico della, diciamo, dei figli dei fiori di tutti i tempi, ovvero Cristiania. Papà, ti prego, qui per strada no, ci arrestano a tutti, io lo dico pure lei, Rinaldo. Non si preoccupi, signor Oreste, Cristiania è un quartiere anarchico completamente autogestito, molto permissivo sugli stupefacenti. Ma papà dov'è? È già andato. Allora, andiamo, sennò si perde. Non si preoccupi, suo padre ha vissuto negli anni 70 più di 6 mesi a Cristiania. Ma tu lo sapevi questa storia di Cristiania? Ma assolutamente no. E voi potete immaginare, l'approdo sarà piuttosto sorprendente, devo dire. Attenzione a tutta la parte finale del film, ma soprattutto diventerà un modo per mettere in discussione le proprie certezze, per ritrovarsi forse anche quando si pensava di essersi persi definitivamente. In questo senso possiamo dire ancora una volta che il viaggio spesso è più importante della meta. È così anche per Alessandro Gassman? Sentiamolo con Anna Foglietta nella nostra intervista. Sì, sicuramente sì, è un viaggio risolutivo per i protagonisti, un padre, due figli, un segretario personale, sicuramente, e anche un nipote, una giovane ragazza. È una commedia che parla di una famiglia molto strana che fa un viaggio che le permette di riscoprirsi alla fine molto meno strana di quello che pensasse, molto più vicina e legata, e quindi è un film che vuole trasmettere desiderio di ascolto e di scoperta delle persone che siamo convinti di conoscere ma che forse necessitano appunto di maggiore attenzione. Anna, e se è vero che appunto il viaggio è la parte più bella ancora prima di arrivare alla meta che si vuole raggiungere, è anche vero che oggi come oggi, se questo non viene tracciato, segnato momento per momento con un post, con una foto, con un'immagine, non esiste semplicemente. E qui scatta il tuo personaggio. Qui scatta il mio personaggio, anche la nevrosi di quest'epoca così iperconnessa, sempre con questa voglia forse nata di dimostrare che si sta facendo sempre qualcosa di molto interessante. Non vedo mai una foto di qualcuno che non fa niente, invece sarebbe interessante postare anche quello, perché la vita deve essere fatta anche di dinamiche noiose, altrimenti poi quello eccezionale non perde di significato. Però sì, il mio è un personaggio molto contemporaneo, è questa blogger che si occupa di tante cose, è molto colta perché è figlia veramente di questo padre, ne ha preso tutta la sua eredità e vorrebbe in qualche maniera calcare le sue orme diventando una scrittrice, solo che non ne ha il talento, e quindi avrà una amara sorpresa insomma durante questo film. Alessandro, chiaramente non è un film biografico, però ci sono dentro elementi che tra il rapporto padre figlio, tra un padre così ingombrante diciamo e un figlio che rincorre un po' da tutta la vita. Il gap generazionale oggi si è accorciato rispetto a quello che c'era magari una volta? No, io credo che il gap sia maggiore invece. Penso che la mia generazione, che è, diciamo, anzi la generazione di Anna, che è più giovane di me, che è l'ultima generazione diciamo nata non digitale, abbia con i ragazzi dell'età di mio figlio, che ha 19 anni, una distanza immensa, e credo che la tecnologia in questo senso abbia allontanato, no? Almeno la partenza dei percorsi. Però sono convinto che in futuro, se impareremo e impareranno soprattutto a gestirla meglio e a farla diventare quello che poi potenzialmente è, cioè un mezzo di comunicazione straordinario, democratico anche, il gap potrebbe accorciarsi come moltissimo, ci troveremo tutti molto vicini. Io ho mia madre che vive in Messico da molti anni, in un posto abbastanza sperduto. Io con mia madre comunico con la tecnologia, molti anni fa questo non sarebbe possibile, quindi veramente sono macchine e sistemi che possono risolvere la vita delle persone. Mi auguro che veramente in futuro si possano usare meglio. Una cosa mi viene in mente sulla tua recitazione, hai avuto tante gamme dentro questo film compresa la mitica scena madre, no? Che insomma ogni attore spesso vuole far arrivare, con tanto di treccia che casca dispari dalla tua spalla. Allora, quanto ti ha soddisfatto questo? Cioè questa possibilità di andare a toccare tante gamme che stanno sempre fra il nevrotico e il comico, comunque, no? Fare un personaggio che nasce e muore in quel modo all'interno di un film potrebbe essere anche interessante, però non è esattamente insomma, il materiale che maneggio meglio, perché io sono comunque un'attrice che nella commedia si diverte particolarmente, mi sento particolarmente comoda, e quindi mi piace come dire, innescare e disinnescare dei meccanismi per renderlo sempre credibile, comunque, perché questo è quello che non deve mai mancare, ecco, la credibilità di un personaggio, per quanto è molto caratterizzato il personaggio di Lucrezia, è una donna estremamente marcata in tutte le sue manifestazioni, però credo che sia sempre all'interno di una partitura precisa e che non vada mai sullo stonato. Questo, insomma, c'era Alessandro che era garante di questa mia, appunto, performance, però penso di essere in questo abbastanza abile nel come dire, aggirare l'ostacolo. Ti faccio un'ultima domanda, Alessandro. Hai citato tanti film di riferimento, diciamo, che hanno innaffiato il tuo immaginario e anche alcuni personaggi, no, che avevi in mente, stereotipi da Umberto Eco, eccetera. A me è venuto in mente anche un po' Bob Dylan, perché c'è un po' dentro anche quella storia lì di qualcuno che vuole, noi non diciamo cosa, ma vuole andare al Nobel e fare qualcosa di grande, sì, o non farlo. O non farlo. Sì, a Bob Dylan non ci avevo pensato, perché noi in realtà eravamo avanti con la scrittura e poi è arrivato Bob Dylan. Ha rischiato di essere fregato con il Nobel. Dylan. Sì, esatto. No, io ho citato dei film appunto in conferenza stampa che mi hanno molto emozionato, parlo di Road Movie, il nostro è una commedia, è un road movie, è un film che fa ridere e viaggia. Forse il film che mi ha più, che è più, diciamo, stato di ispirazione per me per questo film è Little Miss Sunshine, perché è una commedia, anche quello è un road movie, è un film meraviglioso, insomma, mi basterebbe il 5% di quello di quel film è riuscito a fare nel mondo, ma la cosa che mi interessava di più è raccontare una famiglia non borghese, anomala, che commette degli errori. A me piacciono i personaggi, mi affeziono ai personaggi che commettono errori, diffido di quelli che non ne fanno mai. E in primis io sono uno che fa tantissimi errori, però sono anche uno che ha la capacità di chiedere scusa, un po' come fa il personaggio, in maniera strana, di Gigi in questo film rispetto ai suoi figli. E quindi è per questo forse che il film mi emoziona quando ne parlo. Anna Foglietta, Alessandro Gassman, il premio nei cinema italiani e alla Rosa Purpurea. Adesso linea alla regia, fra poco un altro grande ospite, Davide Ferrario, per il film 100 anni. Indagati, calo del PIL, Trump che litiga con Kim. Oh, certo che i giornali non ci aiutano molto a trovare buone notizie per fare un programma ottimista. No, Carlo, guarda, c'è anche il cuoco che cucina per i poveri, questa promettente startup di giovani studenti e un politico onesto. Oggi, domani si vedrà. Va bene, ma hai convinto, si può fare davvero. Sabato iniziamo alle 7.30 e domenica alle 8. Presto, questa è una buona o una cattiva notizia? Ottima, io non vado neanche a letto. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Di Alessio Maurizi e Carlo Gabardini. Sabato dalle 7.30 alle 9 e domenica dalle 8 alle 10 su Radio 24. La Rosa Purpurea. Sono in 300.000 a partire. Uno su tre non torna indietro. La più alta percentuale di caduti tra i prigionieri fra tutte le nazioni in guerra. Perché? Muoiono anonimi, senza che vengano informate le famiglie. Sono i figli bastardi, i ripudiati di Caporetto. Eccoci qua, la Rosa Purpurea prosegue. Abbiamo sentito una clip del film 100 anni di Davide Ferrari, un film che sta girando l'Italia con una formula quasi da tournée. Lo troverete a Milano, Bergamo, Trieste, Udine, Pordenone, Gorizia e poi ancora a Reggio Emilia, Roma, Torino. Insomma, un film che Davide Ferrari sta portando per l'Italia proprio per raccontare l'Italia partendo da quella che è anche diventata simbolicamente la sua sconfitta più grande, è diventato anzi sinonimo di sconfitta, Caporetto. Davide Ferrari è qui in collegamento con noi alla Rosa Purpureo. Ciao Davide. Buongiorno. Ben ritrovato qui nel nostro programma. Con questo film, Davide, tu completi una ideale trilogia, no? Piazza Garibaldi, La zuppa del demonio e adesso 100 anni, per raccontare un po' e fare un po' il punto su quella che è l'Italia di oggi, partendo qui però dalla sua sconfitta più grande, dalla sua sconfitta più dolorosa. Cosa ha da insegnare Caporetto all'Italia di oggi? Credo intanto dovremmo domandarci perché di tutta i nomi e le geografie della Prima Guerra Mondiale sia rimasto nel linguaggio comune proprio Caporetto e il Piave, cioè la grande sconfitta e la grande resistenza. Vittorio Veneto non viene usato nel linguaggio comune per indicare alcunché, mentre la Caporetto, ahimè, la usiamo anche per la nazionale di calcio recentemente eliminata dai mondiali. Insomma, evidentemente c'è qualche cosa nella sconfitta che spiega di più sul carattere degli italiani che non la vittoria. E infatti di Caporetto ciclicamente nella storia militare, civile, morale, politica italiana ce ne sono state tantissime. Siamo un popolo che ha bisogno della sconfitta per vedere più lucidamente la natura del suo carattere e poi da lì ripartire, senza dimenticare che però appunto non è una partita di calcio che perdi l'andata e vinci il ritorno. Ecco Davide, quale senti essere la Caporetto più recente della nostra storia? Io credo che stiamo vivendo una Caporetto molto quotidiana e drammatica e forse potrebbe essere anche definitiva. Di cui si parla però poco ed è la Caporetto demografica. Noi siamo in una situazione in cui i demografi ci dicono che tra qualche decennio gli italiani, come li abbiamo sempre pensati, semplicemente non ci saranno più. Saranno una qualche decina di milioni, molto meno di adesso, di anziani. Ecco, di fronte a questa cosa io mi aspetterei che la politica qualcosa dicesse, invece stiamo ancora a discutere sull'immigrazione da un punto di vista quasi morale o di difesa dei valori. Qua siamo di fronte a qualche cosa di più grande, di darwiniano. È un venir meno di un popolo che dovrebbe pensare al suo futuro guardando al suo passato. Ed è quello che abbiamo provato a raccontare nell'ultima parte del film, prendendo le aree interne del sud come esempio di tutto questo. Sono aree tra le Irpinia, la Lucania, la Puglia, dove Franco Arminio, magnifico poeta e scrittore, ci porta. E come dice Arminio, lì non c'è più la povertà o la miseria che c'era classicamente nel sud, c'è la desolazione, che è un concetto diverso. Però forse anche da lì si può ripartire. C'è una bellissima scena in cui un vecchio professore, in una chiacchiera da bar, ci dice: ma guardate, il futuro non arriva mai come uno se lo immagina, quindi magari anche nonostante le evidenze ci raccontino tutto il contrario oggi, chissà, forse i giovani in futuro riescono a trovarselo lo stesso. Il Novecento è stato un secolo di tragedie, di morti, e oggi che viviamo da tempo in pace ci troviamo questo paradosso: un'Italia di non nati, soprattutto al sud. Ecco, un'ultima cosa Davide, come hai lavorato alla parte proprio dei materiali filmici? Quanto equilibrio hai voluto tenere fra la parte documentaria e la parte, diciamo, girata con materiali, utilizzando materiali d'epoca? Ah, in realtà io penso che il cinema e non dovrebbe già esistere la divisione tra documentario e cinema di finzione. E poi penso anche che quando fai un documentario sulla storia devi essere molto consapevole di una cosa: la storia, lo dice la parola stessa, che seconda che la usi con la S maiuscola o minuscola, è una narrazione. Quindi non sono solo i fatti che devono essere esposti, ma il modo in cui li racconti che determina il senso delle cose. Ecco, allora che questo film è quasi schizofrenicamente frammentato in quattro stili, in quattro episodi raccontati con stili completamente diversi, dove certe volte c'è il teatro civile, avete sentito prima la voce di Marco Paolini, inconfondibile, Marco è uno dei cinque attori che ci raccontano la vicenda della Caporetto storica, come ho detto Franco Arminio in una sorta di road movie ci porta in giro per il sud, E infine c'è un secondo episodio dedicato a fascismo e resistenza, fatto tutto con materiale d'archivio, che però non sono i soliti film del Luce, con Mussolini, le grandi durate oceaniche. Sono materiali straordinari recuperati tramite la Home Movies di Bologna, sono film amatoriali dagli anni 20 e 30, dove salta fuori il fascismo quotidiano, quello allegro, quello della gente che non ci pensa su e che, ahimè, è anche più inquietante delle radunate oceaniche, delle manifestazioni in divisa nera. Grazie allora Davide Ferrario, 100 anni nei cinema italiani, andate a vedere con quale tipo di percorso, perché è un film che vale davvero la pena vedere. Grazie Davide. Grazie a voi. E allora da 100 anni passiamo a giocare per la seconda delle tracce misteriose di oggi, sentiamo. Oh mio Dio, non dovresti stare qui. Di chi è questa stanza? I Mullins avevano una figlia. Era sua. L'avevano. Allora, se siete abbastanza inquietati da queste voci di bambine che parlano di una figlia che avevano, forse avrete anche indovinato di che film si tratta. Allora scrivetecelo alla rosapurpure@radio24.it, perché ci sono due belle copie in DVD di questo film che fra poco sveleremo e che vi aspettano. Adesso invece ci aspetta il ritorno in cabina di regia di George Clooney con Suburbicon. Mi dispiace tanto per la tua perdita. Grazie, Roger. Nicky, abbiamo pensato che sia meglio che zia Margaret venga a stare da noi per un po'. Signorina Aurori, sono Bud Cooper, Canyon Assicurazioni. Sono qui per parlare della polizza di sua sorella. Se fai questo lavoro da tanto tempo, sviluppi un fiuto per le cose lusche. Hanno un vago aroma, ma questo non ce l'ha, quel vago aroma. Grazie al cielo, direi. No, ha un vero fetore. E allora, George Clooney che riprende un vecchio progetto dei fratelli Coen. Pensate, addirittura una sceneggiatura che risale al 1986, firmata da Ethan e Joel Coen. Nel 2005 diventa un progetto da affidare proprio a George Clooney, regista e attore, ma nel 2015, quindi sono passati 30 anni nel frattempo, George decise di uscire dal cast e chiama al suo posto Matt Damon come protagonista. Noi richiamiamo invece al suo posto Boris Sollazzo. Boris, questo Suburbicon, gestazione piuttosto lunga, devo dire. Intanto ti chiedo se è una storia che in qualche modo è invecchiata, se i Coen l'avrebbero fatta diversamente o se insomma alla fine va bene così. È una storia invecchiata, i Coen l'avrebbero fatta diversamente e secondo me forse non l'avrebbero proprio fatta, cioè non è un caso che appunto è rimasta una sceneggiatura e non sia diventato un film al di là della gestazione complessa, perché è un progetto che abbastanza evidentemente è acerbo, è un progetto che rappresenta, diciamo, quella parte della loro produzione più leziosa, più diciamo ideologica, in quel modo radical di guardare i difetti della nostra società, e forse anche più didascalica. Problema è, tra l'altro, appunto, non lo fanno loro, cioè lo fa qualcuno che ha lavorato con loro, che li conosce bene, che ha saputo lavorare con loro molto bene come attore, ma che non ha una sua cifra stilistica precisa. Come regista, George Clooney è sempre stato bravo nel cinema civile, nel cinema politico, comunque in cinema di genere che fosse col pilota automatico, in cui l'argomento, in cui la struttura si portava appresso anche lo stile e l'estetica del film. Se lui deve costruire un universo visivo, un immaginario visivo, deve portare il conto, la visione oltre diciamo le logiche di conseguenzialità, cambia un po' tutto. Qui che succede? Suburbicon è una sorta di quartiere tipicamente americano, piccolo, medio borghese, in cui tutti si adorano. Sembra il paradiso, se non fosse che capisce a un certo punto che sono tutti bianchi, che hanno tutti più o meno la stessa estrazione sociale, e che nel momento in cui arriva una famiglia di neri esplodono in un odio sordo, ottuso, eccessivo e estremamente violento. Nel frattempo, in una di queste case che rappresenterebbero la buona America, l'America giusta, succede qualcosa di terribile, in parte inspiegabile. Come spesso accade con i Coen, alla visione sulla società si installa insieme a questo un thriller, un noir, sempre con toni grotteschi. E qui c'è proprio tutto il problema di George Clooney, che non è bravo con gli attori come i Coen, e lo si vede con l'amico Matt Damon, che non riesce veramente a dare una reale personalità al suo personaggio. Si conferma insomma l'attore non eccelso che è nel momento in cui non abbia una salda mano a dirigerlo. C'è una Julianne Moore che è l'unica cosa veramente interessante del film, perché è straordinaria, più invecchia il film più migliora. E poi c'è una gestione di tutti gli stilemi estetici dei Coen abbastanza eccessiva e poco equilibrata, dai colori appunto alla costruzione delle battute, dei dialoghi, ai personaggi secondari. Insomma, sembra una scopiazzatura, una brutta copia che non riesce mai a convincere, non riesce mai ad avere una sua personalità. Siamo abituati a trattarlo bene, Clooney, perché è bello, bravo e dice sempre la cosa giusta, ma come regista, almeno come regista di questo tipo, dobbiamo bocciarlo. La severità del nostro Boris, che boccia Suburbicon di George Clooney. Noi invece fra poco vi raccontiamo tutto il cinema da vedere in casa e sveliamo il DVD Game di oggi, fra poco. Ciao chef, come stai? Ciao Pier, bene, bene, grazie. Senti, cosa mi prepari? Io pensavo nuvole di granchio, una sensazione di finfarro, magari con un'assenza di rododendro al gratin. No, sei troppo futurista, dobbiamo essere più pop. E parla come mangi. Ma no, mangia come parli. Mangia come parli, di Davide Oldani e Pierluigi Pardo, il sabato alle 9 su Radio 24. Ma la sensazione di finferlo! La rosa purpurea. Eccoci qua, la quarta parte della rosa purpurea, tutto il cinema da vedere in casa in queste giornate che ci introducono verso il Natale. Fra poco, prima diamo un'occhiata a quello che succede nelle classifiche degli incassi, giusto per dire che la partenza di questo lungo ponte dell'Immacolata è stata ancora dominata da film che c'erano già, segnatamente da Assassino sull'Oriente Express, che sta galoppando veramente molto al botteghino. Il migliore dei film nuovi che sono usciti è Suburbicon, davanti a Il Premio, che però nel weekend sicuramente riusciranno a recuperare un po'. In America invece sta dominando Coco della Disney, che da noi arriverà fra poco, la classifica appunto del botteghino americano. Veniamo allora al game con il quale avevamo giocato 7 giorni fa. Ci sono momenti in cui è necessario abbandonare la nostra umanità per salvare l'umanità. Tutta la storia dell'umanità ci ha condotto qui. Tanto umanità, ma poi sono le scimmie a dominare nel pianeta delle scimmie. The War, il pianeta delle scimmie, in Blu-ray. L'hanno indovinato e lo riceveranno a casa Michele Oldani di Marcallo con Casone, provincia di Milano, e Maurizio Di Prima di Larciano, provincia di Pistoia. I nostri due ascoltatori che riceveranno questo Blu-ray di The War, il pianeta delle scimmie, che ci facciamo raccontare da Giulio San Giorgio di Film TV. Ciao Giulio! Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, stiamo parlando dell'ultimo capitolo di quella che è una, a mio avviso, delle migliori saghe del cinema di oggi americano, soprattutto capace di coniugare temi e passo shakespeariano nella narrazione di questo scontro tra scimmie e umani, e di lavorare anche però come se fosse veramente un'avanguardia industriale per superare i confini del cinema digitale, con questo protagonista Cesare, questa scimmia antropomorfa emblematico, che è una scimmia animata da Andy Serkis, una sorta di misto post-umano fatto di carne e soprattutto di pixel, che è sicuramente una figura molto più umana degli umani, una figura decisamente epica. Insomma, ultimo capitolo di questa trilogia, che è una sorta di Apocalypse Now, di guerriglia tra uomini e scimmie, con un antagonista incredibile interpretato da Woody Harrelson. Blu-ray veramente ottimo nella fattura, ricchissimo di contenuti speciali, si va dalle scene eliminate al commento audio di Matt Reeves a approfondimenti vari. A mio avviso la degna chiusura di una trilogia imperdibile. Ecco Giulio, diamo un'occhiata anche alle segnalazioni televisive con un collegamento costante con l'attualità, perché martedì 12 dicembre su Cine Sony alle 16:15 va in onda Tutti giù per terra di Davide Ferrario, film del 97, abbiamo avuto ospite Davide Ferrario con il suo nuovo 100 anni, può essere il caso anche di recuperare questo film di qualche anno fa, che vale davvero la pena vedere. Invece parliamo di quello che probabilmente uno dei pochi culti film cult giovanilistici del cinema italiano. Dall'omonimo romanzo di Giuseppe Pulicchia, Tutti giù per terra, uno spaccato generazionale che vive uno sguardo molto mobile e intelligente che va dal videoclip al documentario, il regista è Davide Ferrario, di un Valerio Mastandrea giovanissimo, pieno di verve, la colonna sonora roccheggiante di quello che era veramente il gruppo di quel momento, che erano i CSI, che interagiscono con la voce off volutamente ingombrante, diaristica, aggressiva del protagonista. Ancora oggi veramente un UFO nel cinema italiano, capace di parlare dei e ai giovani con un linguaggio a loro consumo. L'appuntamento quindi con Tutti giù per terra di Davide Ferrario è su CineSony martedì 12 dicembre alle 16:15. Giovedì 14 invece alle 21:10 in prima serata arriva Tutti dicono I love you su Rai Movie, Woody Allen che sta per arrivare con la sua ruota delle meraviglie. Sì, tra gli sfizi, tra i tanti sfizi direi che si è tolto e si sta togliendo nella sua carriera Woody Allen, non poteva non esserci anche un musical più amato forse da spettatore che ha agognato come regista, eppure questo è un film che funziona, è probabilmente la carta vincente da ricercare nel coraggio con cui Allen costringe attori come Alan Alda, Drew Barrymore, Julia Roberts, Goldie Hawn e Edward Norton a cantare, a muoversi sulle note, loro che non sono assolutamente avvezzi al genere e ai balletti. E per la prima volta, tra l'altro, il grande regista newyorkese gira e filma spostandosi su fronti diversissimi, da New York a Parigi a Venezia, che sono forse le sue patrie, diciamo, naturali e adottive. Appuntamento con Woody Allen e Tutti dicono I love you su Rai Movie alle 21:10 di giovedì 14 dicembre. Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, la prossima settimana. E siamo giunti alla fine della nostra trasmissione, non ci resta che annunciare il nome del film misterioso di oggi, il titolo del film misterioso di oggi, si trattava di Annabelle 2, i vincitori la prossima settimana di questo horror che ha davvero caratterizzato la prima parte del box office di questa stagione. È tutto, ci sentiamo la prossima settimana, un saluto da Franco D'Assisi.